Ciao a tutti, sono Gea, sono di Palermo. Sono una studentessa dell'Accademia di Belle Arti e qua la situazione è congelata da più di un mese. Perché potete immaginare che un'accademia dove si fanno lezioni anche pratiche e laboratoriali non è proprio facilmente predisposta a fare lezioni online. Ma anche le lezioni online delle materie teoriche ancora non sono partite perché come dire, sistemare una piattaforma online è più complicato e con mezzi burocratici di quanto si potrebbe pensare. Vi leggo una poesia di Carlos Drummond de Andrade che si intitola Aurora. Il poeta era ubriaco sul tram. Il giorno nasceva dietro i giardini. Le pensioni allegre dormivano tristissime. Anche le case erano ubriache, tutto era irreparabile. Nessuno sapeva che il mondo sarebbe finito. Soltanto un bambino lo capì, ma stette zitto. Che il mondo sarebbe finito alle 7:45. Ultimi pensieri, ultimi telegrammi. José, che collocava i pronomi. Elena, che amava gli uomini. Sebastião, che si stava rovinando. Arthur, che non diceva niente. Si imbarcarono per l'eternità. Il poeta era ubriaco, ma coglie un appello nell'aurora. Andiamo tutti a ballare fra il tram e l'albero. E fra il dramma dell'albero danzate, fratelli miei. Seppure senza musica, danzate, fratelli miei. I figli stanno nascendo con la spontaneità così grande, com'è meraviglioso l'amore. L'amore e altri prodotti. Danzate, fratelli miei. La morte verrà dopo, come un sacramento.